Si chiama progetto L'Onda della società Ergo Renewables, che poi fa riferimento a Eni, e prevede 6 sale alte 200 metri ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, perché L'Onda è comune del Parco Nazionale, e 3 di queste torri eoliche si trovano nella zona Buster, nella zona cuscinetto del Parco Nazionale, e tutto l'impianto si colloca sul corridoio ecologico e zone vincolate dal punto di vista paesaggistico e con tutele ambientali specifiche a motivo della ricca biodiversità e di ecosistemi tra i meglio conservati in Appennino. Quindi noi come comitati territoriali riuniti aderenti alla coalizione ambientale TES, Transizione Energetica Senza Speculazione, siamo favorevoli alle rinnovabili, ma in luoghi degradati, in luoghi industrializzati, dove ci sono siti industriali di aree dismesse o già cementificati, che non vadano a devastare ambienti naturali, compromettendo le reti idrografiche, le falde, l'ultima acqua pura rimasta, compromettendo la sicurezza della fauna, della bifauna, distruggendo ettari e ettari di foreste, perché quando arrivano questi ecomostri, possiamo chiamarli così, si devono aprire viabilità, aprire i versanti delle montagne, sbancare i sentieri, CAI nazionali ed europei, per fare autostrade per l'eolico e portare su con mezzi speciali queste enormi pale, che poi devono essere collocate con ampie basi di cemento armato, plinti e macropali in profondità, che non verranno mai tolti, e quindi tutte le zone interessate diventano zone industriali. Viene cambiata la destinazione urbanistica e gli Appennini, i Crinali, diventano siti industriali, privati di tutti i vincoli paesaggistici e di tutte le tutele ambientali che li proteggano. E gli Appennini ovviamente sono le riserve di acqua, di aria pulita a motivo delle foreste, di mitigazione climatica, quindi l'abbattimento delle foreste, lo sbancamento delle montagne, che viene fatto tutto con consumo fossile e grandi emissioni di CO2, vanno a cementificare in modo irripristinabile e irreversibile ecosistemi montani, che sono a salvaguardia della sicurezza e della salute delle valli. Quindi si va completamente nel versante opposto a quello che invece si dice di voler affermare. C'è in atto una grandissima speculazione finanziaria con incentivi, ultimi 20 anni 210 miliardi di incentivi, che poi vengono pagati dagli utenti con gli oneri di sistema, con le bollette elettriche, e a motivo di questi incentivi si va a impiantare questi mega impianti eolici a fronte di una resa, di una produttività scarsa, perché nell'Appennino centro-settentrionale il vento è poco, e in Italia non c'è assolutamente il vento che c'è in Europa centro-settentrionale o nel Mare del Nord. L'Italia ha migliaia di chilometri quadrati attualmente disponibili per le rinnovabili. Quindi noi, nel nostro piano energetico, nella nostra proposta di piano energetico di PES, diciamo prioritariamente andiamo a sfruttare questi migliaia di chilometri quadrati che abbiamo disponibili in arterie autostradali, in tetti, in capannoni, appunto i capannoni commerciali, sugli edifici pubblici, sui parcheggi, le stazioni. Utilizziamo queste superfici già cementificate senza ulteriore consumo di suolo, senza andare sui terreni fertili, rurali, senza andare a devastare le montagne. Perché una volta che tocchi le montagne, metti in pericolo le valli e le pianure. Certo. Anche a confivo di questi forti fenomeni atmosferici, con piogge forti concentrate in poche ore, che possono causare alluvioni, frane e quindi causare quello che è il dissesto idrogeologico, che poi porta a morte, vittime, distruzioni, perdita di ortaggi, perdita di allevamenti, perché quando si va sott'acqua ovviamente i danni sono ingenti. La politica e le istituzioni come sono orientate rispetto a questo progetto? Recentemente il consiglio dell'ente Parco Nazionale ha espresso parere unanime contrario al progetto, così anche la comunità del parco, 11 sindaci della comunità si sono espressi unanimemente contrari al progetto eolico. La regione? La regione ha richiesto integrazioni per poi esprimere la valutazione di impatto ambientale, quindi il procedimento è in corso. Anche Italia Nostra, con la collaborazione di TES, dei Comitati Territoriali Riuniti, del Comitato Crinali Liberi d'Onda, ha fatto osservazioni. Queste osservazioni sono state inviate alla Regione Toscana e sono state presentate pubblicamente alla popolazione in un convegno molto partecipato e per ascoltare tutti i rilievi che vengono fuori dalle osservazioni, tipo che in questo progetto nessuno ha potuto vedere i dati anemometrici, che devono essere reperiti con un anemometro, secondo la giurisprudenza, per un anno, per valutare quindi la produttività del vento, l'esistenza del vento e quello che può quindi produrre un impianto. Quindi, a fronte di questa mancanza dell'esame dei dati anemometrici, però si dice che il progetto di impianto industriale eolico è per pubblica utilità e si motivano così gli espropri forzati, che per forza bisogna passare di lì, bisogna passare da quelle strade con il cavidotto da quelle proprietà, che vanno a pregiudicare le attività e il valore delle strutture recettive di chi fa agriturismi, di chi ha aziende agricole, di chi ha ville di pregio storico, senza che però il pubblico possa accedere ai dati sul vento. Quindi anche diversi privati e strutture recettive hanno fatto proprie osservazioni al progetto eolico per rilevare i danni che l'impianto industriale apporterebbe alle loro attività, al valore dei loro immobili e anche il pericolo per la salute, perché si calcola sia la distanza delle sale sia la distanza della gittata di pezzi, di frammenti di sale che possono staccarsi causando un grande rischio per la salute pubblica. Oltretutto le autostrade dell'eolico passano su sentieri che sono sentieri di crinale, importantissimi per il turismo, e siccome qui siamo in zone dove si vive esclusivamente della bellezza della natura e del paesaggio, significa andare a distruggere, a devastare il futuro di questi territori.